i motivi per cui dovrei evitare di dirtelo. Ma dal momento che mi scrivi dirò che l'ho capito da subito. Perché sei tu che quando arrivi sorridi e a me mi gira benissimo. È sempre tu che se decidi ti giri e mi pugnali in un attimo. Così succede che mi pare che va bene, ma invece non va. E se migliora allora peggiorerà. Oppure sono sicuro che va male, arrivo di là e te lo dico e tu mi dici ma va. E ancora a me succede che va bene e invece non va. E se migliora allora peggiorerà. Oppure sono sicuro che va male, arrivo di là e te lo dico e tu mi dici ti va. Ma io così non vado avanti. Mi ricordi il male, non per i riflessi, per il sugo andato a male, il qualunquismo dei discorsi sotto l'ombrellone, il sudoku che non torna è quello che era scritto appena, è già da cancellare, è come l'amore, va di tasca in tasca come l'accendino vuole, ti ritorna quando non hai niente da picciare, se escludiamo il poco che rimane. Sui tuoi poveri stracci, piano piano vai giù, come un programma di Sorgi, piano piano vai giù, ma poco dopo risorgi, solo che non ti accorgi dei sorrisi posticci, dei pensieri che scacci, delle cose che lasci, per banali capricci. Mi ricordi il mare, non per gli ombrelloni, per la fila in tangenziale, il malfunzionamento del mio condizionatore, la discesa libera sui sassi senza delle scarpe, per fare finchettoni, questo è un po' il sapore del tutto compreso, inclusa la consumazione. Io l'ho già bevuta eppure ho ancora troppa sete, soprattutto quando tu mi uccidi. Fischettoni, mi ricordi il mare.